Là in colonia lavorava e l'uomo e la donna, e tutto andava pulito, una muccia di terra, terra piana, comincia a comprare trattori, macchine, meccanizzare su sta terra, tosati vien grandi, tutto quanto andava pulito. E sto capotola un diga di così, la sua donna c'era maestra, i fiori c'era grandi, lavorava come bestie di notte. E là di una scianta, e il gaccia mai ha fatto una riunione con la famiglia, guarda tu, vatti a vivere, gavi tutto quel che vi occorre, gavi terra, benfeitoria, gavi tutto. Mi va in paese, mi e la mamma, siamo qua da rente, e mi va a vedere cosa che faccio da mia vita, gli indatti. E arriva in paese, compra un bel galponotto, mette su una fabbrica. Sua donna, come era una donna responsabile, subito chiamata il banco, la vita l'era fata. Passa un perde di, questo uomo, gas cambia massa di sguelto. La cibernetica, la informatica, la comunicazione, il scambiamento, tutto quanto andava a massa sguelto, passo testa. La sua donna andava bene, ma lui, ligate il banco e gli diceva che questo sistema di qua, questo sistema di là, e avanti. E lui non conseguia mia, tutto quel che è scambiamento della vita era massa sguelto, passo testa. E con questo tal del sistema, lui gli ha detto a quel del banco, toso, aspettami che incove io do del banco, per conoscere questo tal del sistema, vuoi guardarlo te a faccia, vuoi vedere se c'è coraggio di dirmi di no. E l'è andato del banco, e quando lei arriva là, è il tosato che ha spiegato che il sistema l'era la maniera di provvidenziare le cose dentro del banco, il sistema del banco e non era mia una persona. E se ha disilludio e ha piantato la quieta in mezzo alle gambe, quando l'era di andare a casa con sta camione tona, il gadit mi son proprio massa in drio. E l'è andato subito a piantarsi su due recini di recce. E gli ha detto, ed ancora avanti non dai un bica a me. E gli ha detto, mi impianto su una tatuaggio anche a me. E le andai in cerca del tatuaggio e non il catta, sta tatuaggio, c'è per la camionetta, ta cascia del sul. Arriva a cascia del sul, chi che fa tatuaggio, chi che fa tatuaggio, scarcellona piena di soldi, questo non era pensiero, arriva di qua, arriva da là, gassa visto che tal posto che c'era un che fa tatuaggio. Le andato rento e gli ha detto, ti te fai tatuaggio? Sì, signore. E allora mi vuoi fare una tatuaggio? Quant'è che costa? 1500 conti tira fuori tutte le notte, sento, 1500 conti paga, mi vuoi fare sta tatuaggio? E dove ho voluto fare sta tatuaggio? Cavadora roba. Non signore, che ha detto. Mi vuoi fare la tatuaggio? Quanto è questo bastonetto qua? Pumfete, in cima tola il bastonetto. E l'uomo gli ha dato due salti in drio. E gli ha detto, ti sei matto, fare la tatuaggio è massa pericoloso, se è un posto massa fragile, fare una tatuaggio lì. Mi pego becca e paga, fa la tatuaggio quanto quel bastone qua. E lui firma ciò. Quel da tatuaggio lo guarda, non che c'era altra alternativa. Ma ha avuto che fago che? Pianta man scarsella, fa canota di $100 qua. Guarda bene, gas come si ha. Ma te un attimo a fare la nota di $100 in cima del bastonetto. E lui è andato via contento. Ma lascia stare che quando l'è arrivata a porta, e l'omenetto quel che fa il tatuaggio, che ha detto, per favore un minutino, una curiosità, par via, una nota di $100 in cima del bastonetto. Guarda il gadito, ben pensata. Mi sono un uomo, anche a me come tutti gli altri, ambizioso, e ogni tanto mi piace di vedere i soldi crescere. E un'altra, Gabi, e un'altra. La Madonna adesso l'è andata a lavorare al banco e ella se la gode tutta di vedere i soldi in darrento e venire fuori. E te dico un'altra ancora. Dopo che sono al paese, anche a me come tutti gli uomini mi goccata un amante e quella che piace di ciucciarmi i soldi e pedo di tutto. Dopo che come sulla fabbrica 20-30 funzionari in reclama del salario, in reclama di tutto, e mai contenti con niente, vuoi andare a casa e vuoi intenire il culo dei soldi.